ascolta già, se poi quest'altro CD che io avanti ieri l'ho messo ed è P, che è scritto PC, P5G, Domodossola 2, trattino TVM, barra TMX serie, Monterboard. Io l'ho messo e poi praticamente mi funzionava l'audio, sono riuscito a far andare i MIDI e riuscivo a ascoltare Van Basco. Da poi di un poco adesso vado e non funziona lo stesso. Allora, tu bisogna prendere audio. Però se tu mi dici, allora, nella allora, motherboard, una cosa che noi riflessioniamo qui, se ti chiede quel CD, lo devi mettere per forza? K. Ma io penso che l'avevo messo, ma non lo ricordo, no, se l'avevo messo. Ma penso di sì, se prima funzionava, scusa, non avrebbero funzionato, no? Allora, quando si danneggia qualcosa di software, viene come cancellato, così è un po' più simosa. Viene cancellato, viene danneggiato, quindi non rispondono più i comandi hardware, se sono quelli hardware vuol dire giudo, software vuol dire morbido. Hardware è la parte elettronica della macchina, software è la parte di programmazione, sì? Ok, aia. Come dire, la sua da UCD? No, aspetta che è il tempo restante, sta finendo, va. Quanto rimane? 59%. Una frangola. No, già 4 minuti. Ecco. E avvicinati al microfono, se lo sai che sembri, ma tanto cattivo. Ma sai questo microfono, è così, non è che posso farti niente, catà in bocca ce lo devo mettere, boh. Facci l'amore. Aspetta, un vizio. Vabbè, tu vuoi che ti non lo so. Almeno mettere di fianco, non dico di fianco alla bocca, nel bordo della bocca. Ce l'ho così, come te lo devo pulire? Però si allontana qualche volta, e fai così, no? È perché sono molto, ma molto influenzata, quindi per quello che non mi sento. Certo? Che sono molto, ma molto influenzata. Cara, pintura di tutti quanti, ciao, ciao. Oh, il lavoro mio. Non ti posso prendere, ma che è questo? Tore, non c'è, non lo sento più. Tore, non ti dico tutto il piccolo, Tore. Chi si sente, insomma? Come la mia buona manco, guarda. Aspetta che guarda che c'è Salamone, se no collega la manco. Come mai è col dipolo? Poco fa lo sentivo meglio. Sì, perché Salamone la disturba. Stai sempre a vedere se c'è il Salamone, se c'è il disturbo, se no collega la manco. Ah, così è, perché ci sono anche lì che si lamentano, dai. Sì, già. Sto usando un apparecchio del 1940. Sì, quindi, no, per me già non ne ho problemi io a disturbare qua. È omologato l'apparato. Eh? Tu hai l'apparato omologato. Vabbè, cosa metta, è stato pure toccato, non disturbo lo stesso. C'entra niente, ma il mio c'è bene il grande. Tanca. Ma questi che escono con un USSB, cosa cavolo sono? USB, USB, non mi fornicerà bravo. United Sideband. Ah? Niente, USB. USB, USB, single sideband, half sideband, left sideband. Dicelo in italiano, Ri, fatelo dire in italiano, o mi tocca salire ai sì, ciao già. Ma il nostro gotto, gatta, parole che non conosco, bu. Sì, cosa sta facendo, se sa come lo sistemo io. Ciao, Vito. Allora, è il tipo di modulazione, cioè il segnale in radiofrequenza che trasmettiamo può essere modulato, come dire che un tubo può essere verniciato in diversi colori, può essere modulato in frequenza, può essere modulato in modulazione di ampiezza, che è quella che normalmente usiamo al baracchino, che stiamo usando in questo momento, ma può essere modulato in banda laterale unica, che c'è l'LSD e la USB, come a dire sinistra e destra, con una soppressione della portanza e si ottiene questo tipo di modulazione. La banda è più stretta, quindi si riesce a passare meglio col QRM, è tutto in modulazione di frequenza, non hai problemi, puoi tirare più gli apparecchi, farti dare più watt, anche mandandoli a lavorare, come si dice, tipo motore al massimo dei giri, senza che distorca la modulazione, quindi per le chiacchierate cittadine così la FM sarebbe il massimo, la M riesce a darti un inviluppo, cioè un volume, una voce più alta, a parità di segnale di partenza e se ben modulato, la banda laterale unica dove i segnali sono bassi, quasi zero, che c'è QRM, riescono a penetrare meglio nel QRM, un po' come una lama di coltello, più affilata e più entra. Sono stato chiaro quasi il rischio, confuso un po'. No, chiarissimo, chiarissimo. Quindi ho detto, lì c'è più gente oppure meno, cioè, come diciamo, la 27, no? La voce diventa mezzo passerina, cioè la banda è stretta, è un po' come camminare in un corridoio stretto stretto, capito? No, serve per, soprattutto per i DX, perché parlare con le altre nazioni, e più la frequenza chiusi la banda è stretta, più facilmente arrivi lontano e ricevi per che ti riceve, riesce a rendere comprensibili, intellegibili anche segnalini molto più deboli, capito? No, vabbè, giusto per il titolo informativo, poi vabbè, un domani se riuscirò a prendere un altro paracchino, volevo prendere qualche altro di quelli belli là. Io faccio, siamo noi e faccio in banda laterale. AM. Cioè, stavo cambiando i tipi di modulazione, ma sempre su 27635, cioè sempre su questo canale. Ho modulato, mi hai sentito modulare, mi sentivi male perché non eri anche tu in FM, non eri anche tu in LSD o in USB. Infatti si sentono la voce tipo papperina da guerra. Sì, beh, quando sei sulla banda giusta migliora molto, c'hai una manopolina che la centri con precisione fino a renderla più chiara, più nitida possibile, se poi conosci la persona proprio già di persona, la regoli fino a sentirlo più uguale possibile a come lo senti di persona. Capito, invece qua non c'è bisogno né di regolare, passi al canale e basta. Vero, qua tu hai una bella voce e ce l'hai bella e basta, ti vedo. E poi come tu mi senti, mi dicono che sono papperina lo stesso. Meglio diciamo. Donald Duck, capisci di sta? Donald Duck. Ciao, sto scappando al lavoro, ci sentiamo, buone cose, divertitevi. Ciao, salutami a Laura. Ciao. Non mi cambiare in ginocchio, ti hanno messo in posizione. No, un figlio mi sto pensando. Ma vabbè, che tu c'hai anche una certa età, non è che sei un ragazzino come me, quindi è normale che qualche acciacco cominci a prenderti. Non è come dice lei, guardi. Vabbè, buon proseguimento, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ehi, ho finito, aspetta un secondo che... Aspetta. Un attimo che mi stanno chiamando qui. Non li senti? dove sei sempre a Itri, anche tu. Hai mollato un po'. Poca gente c'è rimasta, non c'è più nessuno, Ti sento perché volasse adesso. La gente sento parlare, quindi mi senti più ti sento molto più basso. Eia. Quindi, anzi, in confronto a un po' di gente ha mollato e quindi, cioè, vabbè, io ci sono da poco, io ci sono da agosto. Eia, pochissima gente c'è, in confronto a quanto mi hanno detto che c'era prima gente, sì sì, di cavolo, sono solo io, donna, dai, ciao. E quindi, a volte, infatti, non è che mi piace entrare, quindi dico, oh, dai, chiudiamo. Eh sì, a quanto mi hanno detto. No, io l'ho voluto così piazzare, ma prima c'avevo il camper, perché d'estate usavo il camper, allora invece poi gli ho detto a mio marito che anche lui adesso se l'ha messo nel camion, allora ho detto dai, piazzano la casa così, se no c'è freddo fuori. Non sai cos'è che è, adesso stanno mettendo troppe portanti, quindi quando vai a parlare non riesci a parlare, infatti anche ci siamo spostati qua per quel motivo, quindi ti sposti qua per giusto per chiacchierare un po'. Io non disturbi, dai. No, io cioè per il momento qua non disturbo nessuno. Quanto ho visto, dai, diciamo, non si è lamentato nessuno. Non dovessi disturbare, chiudo tutto e buonanotte, intanto cosa fa? No, io c'ho solo questo, l'Alan 48 e basta, non ho altro, niente. No, io solo questo e basta, no. Poi Stefano, mio marito, se ne ha preso un altro, l'Alan 69, giusto per averlo nel camion, e basta, non ne abbiamo altri. No, infatti vi ho detto, me lo stavo cercando prima uno di quelli belli, dai, diciamo, che ti puoi collegare con altre, insomma, anche per ascoltare solo. Poi ho fatto, ma cosa ve ne faccio, infatti c'ho questo. La gente è poca, quella che c'è qui. Sì, sì, infatti proprio è vero. Io avrò mollato per una settimana, infatti tutti, ma come mai Rita non è entrata? Cioè, ero l'unica che era sempre lì a baracchino, no? Da quando me l'avevo messo dentro casa. Ma giusto per staccare un po' la spina, no? Tipo, un po'. Poi mi sono messo mio marito, allora ci sentiamo così al baracchino, per risparmi. Bello. Io invece canto a casa e boh. Perché se poi vado a cantare negli altri posti ne scende l'aria. Quante ne hai perché tu? 34. Meglia. 76, già non sono vecchia ancora, dai. Prima la giornata, questo periodo qua un po' di crisi c'è, cioè, per tutti mi sembra, no? Mio marito fa camionista, io prima facevo la commessa, poi ho avuto due bambine e quindi a casa, adesso come rientrano, una è già rientrata all'asilo e poi entrerò anche io a lavorare di nuovo se lo trovo, se no si rimane a casa lo stesso. Lo sì, io lo so, ma stare a casa tutto il giorno cosa rimane a fare? Non fai niente, quindi da una parte è meglio andare a lavorare anche perché due stipendi fanno comodi. Sì, è meglio. Un conto per dire quando sei così fissa. Io ero solo per 2 anni come commessa, poi lì alle Meluga di Viale Portatorre, poi invece niente, sono rimasta in attesa e sono andata via io. Sì, infatti è quello, io infatti poi mi avevo preso come prima per 2 anni, vabbè c'ero dal 2001 lì, poi mi hanno fatto il contratto di 2 anni, è scaduto, mi avevano fatto il contratto con, non ti danno un cavolo, allora sono andata via, ho detto cosa mi rimango a fare, per niente, allora mi sono preso una sede e ho detto beh, arrivederci, Marcello, io via Giovanni che si ne ha fatto. Sì, soprattutto. Noi siamo a controllo, però mio marito a conto suo, cioè con il padre. Però ha calato talmente tanto, soprattutto qua a Sassari, che cioè, giusto i lavoretti, riesci ad andare avanti così, giusto? Non è che ti fai ricco. Ah, fai un po' di tutto. Lui lo stesso. No, lui fa movimento terra, scavi, dai, una cosa del genere, quindi scavi, movimento terra, fa di tutto, quello che c'è da fare, però appalti così non ne prendono, giusto, privati e basta. E ai, facciogliersi il nervo a tagliarlo con la motosega. E ai, aspetta un minuto. Gianni? Sì, mi intende. Ecco Gianni, mi dice in un CD che ho messo, spazio disponibile 0 byte, disponibili totali 0 byte, perché? Non dire che tiene. Non mi dà nulla, cosa c'è dentro? Sì, non vedi niente. E perché? Perché non lo vedi, perché c'è quel lavoro lì. Per vederlo cosa devo fare? Niente. Quale CD è? Quello di DVD? No, un DVD. Dove chiamano il fantasma? Ormai intanto, se non ho altri CD, quindi quella roba là, pazienza, se la cancello. Allora, prendi il CD di installazione. Sì, ce l'ho. Sta andando adesso l'icona, vero? E mi dice Microsoft Win XP, scegliere un'opzione. Ok, installa, aiuto, dai. Installa? Dai. Andando sta. Mi dice installa di installazione di Win, scegliere il tipo di installazione da effettuare. Tipo di installazione aggiornamento, scelta consigliata. E poi c'è avanti. No, nuova installazione. Dove devo andare? Ah, ecco, nuova installazione avanzata. Sì, vai avanti. Accetto? Contratto? Sì, beh, certo. Questi passaggi indicano, vai avanti sempre. Vai avanti sempre, qualsiasi cosa vedi, non spaventare. Il codice già, non ce l'ho. Sì, che c'è scritto? È scritto nella custodia del disco. No, sopra il computer. Dove sopra il computer? C'è una traghetta verde. Dove? Ma nel cervello. Nel cervello? Ma non credo che nel tuo cervello c'è una traghetta. Io, nel mattone. La centrale. Allora, se tu guardi, c'è una traghetta verde. O è sopra il cover superiore, oppure è dietro. Ma dello schermo mi stai dicendo, dove? No, nell'unità centrale, sotto, nel sesto del computer, nel macchinario. Aspetta. Guarda, potrebbe essere o sopra, una traghetta verde, c'è scritto, di solito inizia XPN, VFB. Aspetta che guardo già. Guarda, vai. Fammi sentire anche da lontano, guarda. O guardi posteriormente la macchina, dove ci sono tutti gli attacchi, una traghetta verde, e c'è scritto che produce. Codice di produzione, ok? Ehi, aspetta che me lo scrivo. Oh già. Ehi. Aspetta che lo scrivo. Ok. Guarda, cazzo. Ehi, ya. Ok. Avvisete? Copia solo così, magari ce l'hai. Già. Ma questo che c'è scritto serial numero, quello lì devo mettere? Sì, metti, prova il serial number, vediamo un po', ma serial number su una traghetta verde? No. No. Serial number non c'entra niente, il serial number. A assolutamente SS.